Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: il maxi emendamento adesso dovrebbe arrivare per quello che riguarda il governo, dovrebbe arrivare il maxi emendamento in discussione, vedremo l'approvazione, parleremo dei contenuti comunque nella seconda ora del programma. È il maxi emendamento alla legge di stabilità, il cui esame appunto è in corso al Senato. Sostanzialmente il governo porrà la questione di fiducia. Ci sono vari temi dentro il maxi emendamento. Perché? Perché vengono recepiti gli esiti dei lavori in commissione bilancio. Ricorderete che era atteso per ieri sera, poi è slittato. E poi ci sono tutte le modifiche alla manovra approvata in commissione, ma che non hanno ancora via libera definitivo dal governo. Tra queste, quella che forse sta facendo più discutere è la misura per ridurre i tagli ai dipendenti delle province, alla luce della riorganizzazione degli enti, cioè che dovrebbero scomparire e venire assorbiti. La riduzione dell'IVA sugli ebook al 4%, l'aumento dal 10 al 22% dell'IVA sui pellet, come ci chiedevano molti ascoltatori. Cosa sono i pellet? Sono quel combustibile che si usa per riscaldare i camini. E il congelamento per il 2015 del canone RAI, lo stop agli aumenti della TASI, con le aliquote che dovrebbero restare quelle del 2014, sapete invece già dagli alluvionati, per cui il governo si è bloccato su quella iniziativa. Ancora, per quello che riguarda i temi, parleremo della riforma del lavoro, perché questa mattina c'è stato un incontro a Palazzo Chigi, convocato dal ministro del lavoro Giuliano Poletti con sindacati e associazioni datoriali, per illustrare i contenuti del primo decreto attuativo della riforma. Tra le ultime novità, la possibilità che nella mozione giustificato motivo oggettivo che legittima i licenziamenti economico-organizzativi possa rientrare anche la fattispecie scarso rendimento. Nei licenziamenti disciplinari il reintegro sarà possibile solo nei casi di non sussistenza del fatto. E le nuove regole si applicheranno anche alle piccole imprese, dimezzando però le mensilità degli indennizzi. So che su questo ci saranno molte polemiche, però diciamola tutta: è pensabile in un mondo come quello attuale che entri la valutazione dello scarso rendimento come fattispecie di un licenziamento economico? Discutiamone. Uno può pensare che dentro questa fattispecie poi uno vada a infilare magari atteggiamenti discriminatori, è corretto come sospetto. Obiettivamente bisogna anche partire dall'idea che non tutti gli imprenditori, direi quasi la maggioranza, vogliono privarsi di un collaboratore valido, a meno che non ci siano motivi di ristrutturazione aziendale o di aziende che falliscono. Però il tema vero è: si può introdurre il concetto dello scarso rendimento? Uno. Due, a mio avviso la cosa più debole di tutta questa riforma del mercato del lavoro non è l'articolo 18, ma il fatto che non venga esteso al pubblico impiego, perché se no restiamo sempre su un settore privato su cui si scaricano tutte anche le flessibilità, e un pubblico impiego no. Personalmente, un'opinione del tutto personale, ma ne parliamo in apertura invece con il numero uno di Manpower e presidente di Assolavoro, che è l'associazione che riunisce le agenzie per il lavoro interinali, per il lavoro, quelle che collocano lavoro, ma non solo alla luce del Jobs Act, ma alla luce del fatto che ha annunciato oggi che circa 5.000 candidati per le assunzioni in vista dell'Expo 2015. Ce ne siamo occupati di imprese che vogliono assumere. Ricordo i casi Impregilo, vado a memoria, Impregilo Salini, per quello che riguarda le ultime notizie. Poi abbiamo avuto anche McDonald's. Sono lavori di diversa chiaramente struttura, importanza e anche stipendio, però ogni volta che abbiamo un annuncio di una ricerca importante lo diamo. La borsa come va? Adesso ne parliamo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda la borsa, dicevamo oggi, alla fin fine, tutto sommato, la giornata si sta chiudendo in maniera abbastanza piatta. Più 0,10%, Parigi più 0,20%, Francoforte invariata, Londra invece più 1,46%, l'America più 0,11%. L'euro invece, a mio avviso, oggi è la vera notizia di borsa, perché è sceso a quota 1,225 e quindi si avvia anche verso quota 1,21. Era un po' risalito dopo lo shock dell'inizio settimana sulla Russia, 1,25%. Adesso siamo appunto a 1,2250 ed è una buona notizia, che di questi tempi non è poco. Un euro 1,22, ricordiamoci che, vado a memoria, 7, 8, 9 mesi fa stava stabilmente a 1,38, 1,41, 1,42. Tra i titoli però, Saipem più 5,60, World Utility più 3,5, XOR più 3,20, Eni più 2,30, Hughes più 1,70 come Fiat Chrysler, Atlantia più 1,40 come Luxottica, Finmeccanica più 1,20 come Campari, e poi c'è Terna e A2A che guadagnano l'1,1%. Mediaset meno 1,30, Mediobanca meno 1 come Ubibanca, Moncler meno 0,90, Telecom meno 0,70 come Generali. Le altre notizie in breve. Allora, partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Il petrolio è un po' risalito oggi a 57 dollari al barile. Giustamente ci fate notare, voi date sempre quello americano, sì, perché si sta muovendo un po' di più. Comunque è il WTI, quindi quello quotato a New York, che si chiama appunto West Texas Index, vado a memoria. La banca centrale giapponese invece oggi ha confermato le linee di politica monetaria, quindi tassi bassissimi, linee ultra espansive, e ha rimarcato che comunque l'economia, nonostante l'incertezza, si sta riprendendo. Loro continueranno quindi a aumentare la base monetaria, stampando yen, insomma, comprando asset, al ritmo annuo di 550 miliardi di euro. Può sembrare tantissimo, però faccio notare che la Federal Reserve, la banca centrale americana, nel periodo d'oro, diciamo, dello stampaggio di dollari, ne stampava circa 80-100 miliardi, era arrivata forse anche a 110 miliardi di dollari al mese. Quindi, se fate le debite proporzioni, visto che stiamo parlando comunque della seconda economia, non è una cifra così colossale, visto che la banca centrale americana è arrivata a stampare oltre 1.000 miliardi di dollari all'anno. Il rublo in leggera ripresa sia sul dollaro che sull'euro, a quota 73 rubli per un euro e 60 per un dollaro. Certo, siamo a oltre il 50% di calo rispetto a inizio anno, però rispetto ai livelli da pre-crack che abbiamo visto a inizio settimana, con il rublo a 100 euro, o meglio 100 rubli per un euro, è sicuramente in leggera ripresa. Ma Londra oggi, lo fanno sapere varie fonti, tra cui Christie's International Real Estate, cioè la parte della società d'aste Christie's, la casa d'aste che si occupa di mercato immobiliare. Beh, Londra si sta trasformando da rifugio a miraggio per i russi benestanti. Perché con un rublo a questi livelli, perché è chiaro che il rublo è crollato anche nei confronti della sterlina, e questo è un ragionamento che deve preoccupare anche tutti, purtroppo, gli operatori turistici italiani, sia sul fronte immobiliare sia sul fronte alberghiero, dell'accoglienza che del lusso, abituati a lavorare con i russi. Penso per esempio alla Versilia, nota zona, a alcune parti della Sardegna, vado giusto così per citazioni, ma insomma a Londra il numero di russi che riesce ad acquistare proprietà immobiliari è crollato del 70%, si guarda le proprietà da 6 milioni di euro in su, quindi parliamo comunque di milionari, però meno 70%, e praticamente resistono solo gli oligarchi, cioè i super ricchi russi, che possono permettersi di comprare ville o magioni da oltre 20 milioni di sterline. Allora, del maxi emendamento abbiamo detto, vi arriviamo dopo. In due dati ancora: gli ordini all'industria a ottobre più 0,1%, purtroppo il mercato estero ha fatto meno 2, buono invece l'andamento del mercato interno più 1,5%. Il fatturato dell'industria per quello che riguarda sempre il mese di ottobre segna ancora un meno rispetto all'ottobre 2013, meno 0,7%. Ed è il quinto calo consecutivo del fatturato della nostra impresa. Le retribuzioni a novembre complessivamente, le retribuzioni contrattuali orarie hanno fatto più 1,1%, è il minimo storico, e nel 2014 secondo l'Istat si potrebbe chiudere con un dato di un aumento delle retribuzioni orarie dell'1,3%, che sarebbe il livello più basso da almeno il 1982, da quando le misuriamo. Faccio anche notare che l'inflazione però è praticamente quasi a zero in questo paese, perché quando parliamo delle retribuzioni contrattuali orarie bisogna anche ricordarsi quanto sono in grado di coprire e di agganciare l'inflazione. Ora abbiamo un'inflazione che in molti mesi è stata pari allo zero, in alcune parti del paese anche sotto zero. Tant'è che sempre l'Istat dice, attenzione, nel 2014 gli statali hanno recuperato un po' di potere d'acquisto, di capacità di spesa, quasi un punto percentuale, grazie alla bassa inflazione. Per cui da questo punto di vista, e poi è chiaro che c'è il blocco degli stipendi, e questo, se lo vedi nel lungo termine, porta a un calo del potere d'acquisto. Però c'è stato un effetto, seppur relativo ma benefico, della bassa inflazione. Oh, adesso ascoltiamo anche il sottosegretario Bressa, però una cosa la voglio dire, magari non diventerò popolare, ma perché i sindacati, io capisco che i sindacati della pubblica amministrazione devono fare i sindacati della pubblica amministrazione, ma perché c'è i sindacati sono pronti all'occupazione delle province ad oltranza contro la legge di stabilità che va a chiudere le province e a riassorbire i loro dipendenti. Cioè, voglio dire, o diciamo che le province non andavano chiuse e allora va bene, che tutti gli enti locali di questo paese funzionano bene come sono, che la pubblica amministrazione di fatto non va toccata. Abbiate il coraggio di dirlo. Siamo per la difesa totale, incondizionata, senza un euro in meno dei costi della pubblica amministrazione in questo paese, ma non degli infermieri, dei medici, dei poliziotti e dei vigili, dei costi complessivi, anche delle province. Oppure potevate dire, come dicono altri, bisognava chiudere le regioni e non le province, ma allora non vai a difendere poi i dipendenti delle regioni. O non minacci la mobilitazione delle province, cioè almeno un po' di coerenza, dica il sindacato della pubblica amministrazione che secondo lui la pubblica amministrazione in Italia non si deve toccare né sulle province, né sulle regioni, né da nessuna parte, e almeno ci mettiamo il cuore in pace, perché sennò la sensazione è che il sindacato, al di là di quello che dice, sia per l'immobilismo totale. E ogni volta che tocchi il perimetro occupazionale non va bene. Faccio notare che nel settore privato il perimetro occupazionale, ossia i disoccupati che si sono generati in quest'anno, in questi anni, se li sono beccati e basta, e lì devo dire anche in molti casi con una grossa serietà da parte del sindacato nell'arrivare a trattative che facessero il meno male possibile, accordi che tutelassero il più possibile, fermo restando la consapevolezza della crisi economica che è ormai nata da 5 anni. Però nel pubblico impiego no, non c'è crisi economica fuori, non c'è una situazione difficile, non abbiamo record di disoccupati giovanili normali, non si deve toccare nulla, e quindi giustamente i sindacati del pubblico impiego si dichiarano pronti ad occupare ad oltranza le sedi della provincia e altro se verranno toccati i se verrà toccato il perimetro occupazionale delle province. Ma fatemi capire una cosa, perché qua le demi vierge, le mezze vergini non ci sono, ma secondo voi l'obiettivo di chiudere le province è di mantenere uguali gli occupati, allora potevamo tenerle aperte ed evitavamo tanti casini, o è di ridurre i vari livelli dell'amministrazione locale, visto che si è ritenuto che bastasse il comune e la regione? Ripeto, uno può anche dire che il vero vulnus, che la vera mangiatoia sono le regioni. Noi qualche sospetto ce l'abbiamo, il debito pubblico esplode da quando le regioni arrivano in Italia, e l'articolo quinto fatto dal centro-sinistra, la riforma dell'articolo quinto, è stato un disastro a suo tempo. Però a me basta un po' di coerenza, dite che nel pubblico impiego non ci deve essere nessun esubero, né l'introduzione a questo punto del merito, né l'introduzione di merito vero e anche di mobilità, cioè fate e ditela tutta, perché non è possibile la mobilitazione per la difesa delle province quando nessuno viene licenziato, verrebbero riassorbiti. Tant'è che il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa rassicura i dipendenti delle province e dice: non vi preoccupate, nessuno perderà il posto di lavoro. E lo ha detto oggi con Simone Spezia al nostro Effetto Giorno. Quello che però deve essere chiarito, perché siamo di fronte a uno dei più colossali fraintendimenti, credo, della storia delle relazioni sindacali, perché la legge di stabilità contiene una norma che dà, è una norma speciale, che dà assoluta garanzia al personale di non perdere il posto di lavoro, proprio perché ci stiamo approntando a fare la più grande opera di mobilità nella pubblica amministrazione della storia della Repubblica, abbiamo immaginato di non farlo con le norme ordinarie, ma di prevedere un percorso speciale. Questo percorso speciale è un percorso a garanzia dei titolari degli attuali posti. Non dobbiamo mai dimenticarci che la Del Rio, al comma 96, dice che i dipendenti manterranno il loro posto il loro lavoro, posto di lavoro, manterranno non solo anche il loro livello di retribuzione. E però mi scusi, se l'Unione delle Province Italiane, che in questo momento ancora esiste, poi chissà che cosa succederà, dice che sui 43.000 e passa dipendenti a tempo indeterminato delle province, 20.000 circa rischiano di perdere il posto di lavoro. No, questo è il fraintendimento, e mi dispiace che all'origine di questo fraintendimento sia proprio Lupi. Nessuno perderà il posto di lavoro, verranno ricollocati, non si parla di esuberi, non si parla di licenziamenti, si parla di mobilità, e noi abbiamo fatto una norma che prevede che ci siano 2 anni di tempo perché questa operazione di mobilità possa avvenire, e in questi 2 anni, cioè nel testo che verrà depositato a minuti al Senato, si fa esplicito riferimento che questa fase transitoria avrà il suo termine al 31 dicembre del 2016, e quindi abbiamo 2 anni di tempo per fare questo tipo di operazione. Poi al 31 dicembre del 2016, proprio perché abbiamo fatto una norma speciale, scattano ulteriori altri 2 anni e mezzo prima che il processo possa dirsi concluso. Quindi è una transizione estremamente morbida. È una transizione che ci porta al 30 aprile del 2019. Nel frattempo i sindacati sono pronti a occupare ad oltranza la provincia, le province italiane. Nel caso specifico è già stata occupata la provincia di Firenze da parte di alcuni dipendenti, e poi ancora l'ha occupata anche la provincia di Imperia. Mamma mia. Vorrei fare una battuta, però dai, non voglio essere rispettoso. Comunque. E le minacce di occupare altre province. Allora, la minaccia di occupare altre province. Allora, facciamo una cosa. Vedo molti messaggi qui. Però, attenzione, già dovremmo essere critici rispetto a un sottosegretario che dice: non vi preoccupate, abbiamo abolito le province ma i dipendenti restano invariati, perché allora il risparmio, spiegami qual è, non ho capito. Ma va bene così, è un periodo di disoccupazione record, nessuno per motivi macroeconomici vuole mandare sul lastrico i dipendenti delle province. Non ce l'abbiamo con i dipendenti delle province. Quello che vorrei capire dai sindacati è che cosa occupi a fare, oppure ripeto, di che il perimetro del pubblico impiego è intoccabile. Oh, stiamo parlando col massimo rispetto di dipendenti e impiegati delle province, non di medici che mancano, insegnanti che mancano, mezzi che mancano agli asili, alle scuole, strade con le buche, impiegati nella manutenzione. Stiamo parlando con il massimo rispetto di impiegati delle province. Allora, attenzione a occupare la provincia di Imperia, perché se la occupate per un mese e niente cambia, poi una domanda se lo fa: serve la provincia di Imperia? Boh. Allora, però la base, che si chiama Tango della Maiella, ce l'abbiamo per altri motivi, perché a proposito del... Sì, confermo che la riforma dell'articolo 18, la riforma del mercato del lavoro, tra cui c'è anche l'articolo 18, si applica al privato. Confermo anche che introduce il tema dello scarso rendimento. Vedo molti messaggi su questo. Mi rendo conto che uno possa introdurre nello scarso rendimento anche altri motivi, però diciamo, si può introdurre il tema del rendimento o no? Perché noi poi girarci attorno col merito, il merito, il merito, i sindacati, anni che parlano di merito nel pubblico impiego e non si è visto nulla. Qualcuno mi scrive, anche nel pubblico impiego sono licenziabili, mi faccia vedere dove, tranne che nei casi di violenza, ma mi faccia vedere dove e ne parliamo, perché poi riempirsi la bocca sul merito, siamo capaci tutto, no? Merito, certo. Allora, voi sapete che Sole 24 Ore ha lanciato un'iniziativa che anche serve un po' a sdrammatizzare i DVD, tutta la collezione dei DVD di Totò. Perché lo dico? Non per parlare di Totò in senso stretto, noi lo usiamo anche perché in momenti di crisi, forse una delle figure più caratteristiche di questo paese nell'affrontare la crisi con un po' di leggerezza è stato proprio Totò. Però a Napoli c'è il museo di Totò. Oh, questo è bellissimo, perché è pronto da 20 anni. Non l'hanno mai aperto, però è un pozzo senza fondo. La sede nel Palazzo dello Spagnuolo, blindate le sale ancora al pubblico, interno è abbandonato all'incuria ed è perito, e c'è stato un nuovo cospicuo finanziamento del comune, 430.000 euro. In realtà lui aprì nel 2010, fu invitata la figlia di Totò, Liliana De Curtis, che guardando le teche vuote fantasticava su tutto quello che avrebbe potuto metterci, donando l'istituzione, che però ancora aspetta. Poi il FAI nel 2012 ha stanziato per il museo 30.000 euro congelata, e adesso praticamente arrivano altri fondi pubblici. Tra l'altro questi fondi sono destinati al completamento e restauro di una scala elicoidale che conduce ai due terrazzi di copertura. Ora, sapete quanto è larga la scala elicoidale che conduce ai due terrazzi? 60 centimetri. Ma chi ci passa? Cioè, qualche anoressico? Qualche bambino? Vabbè, però da Napoli a Venezia non c'è solo in comune il mare, a parte che sono due mari diversi, perché anche lì c'è un museo. È il museo di Altino, provincia di Venezia, solennemente aperto nel pomeriggio di venerdì scorso, solennemente chiuso la sera stessa, dopo 30 anni di lavoro. Ta-ta, praticamente prenotazione a ruba, era un click museum. Allora, era 1984, faccio notare che nell'84 Albano e Romina vincevano a Sanremo, ma soprattutto l'Apple lanciava il primo computer Macintosh. Noi iniziavamo i lavori per il museo di Altino, perché il museo di due stanze era già troppo piccolo, anche perché stava emergendo tantissima roba dagli scavi nella campagna dove sorgeva una città paleoventa che si chiamava già Altino, ed emerse un'arena grande come quella dell'Arena di Verona. Scusatemi la voce. Si decise allora che bisognava fare un museo all'altezza degli scavi. Nel 2001, dopo 17 anni di lavori, il polo non era ancora pronto, il cantiere era fermo e non c'era più una lira. Peccato che di lire, non di euro in questo caso, se ne fossero già spesi 10 miliardi. Poi nel 2004 arrivano 3 milioni e 100 di euro da Arcus, società per lo sviluppo dell'arte e la cultura dello spettacolo, divisi su 3 anni, 800.000 il primo anno, 900 il secondo e il rimanente il terzo. Due anni dopo, prima di inviare la terza tranche, però Roma ha chiesto alla sovrintendenza una rendicontazione. Che ne avete fatto di questi primi soldi? C'è in tutto 1.700.000 euro. Risposta: rendicontazione di cosa? Perché ne risultavano arrivati solo 200.000. Perché? Perché il ministero, mandando la prima tranche, aveva in allegato un foglio da rispedire al mittente con l'indicazione del numero di conto su cui accreditare i soldi. Nessuno se n'è accorto di sto foglio alla sovrintendenza, quindi i soldi non sono mai arrivati. Ma adesso, ma vi rendete conto in che mani siamo in alcuni casi? C'è una sovrintendenza che aspetta dei soldi per un museo. Il ministero glieli dà, il governo glieli dà 3.100.000, gli dice: ti do 800.000 euro il primo anno, 900 il secondo e quello che resta il terzo. Mandando i primi soldi, no, c'è un allegato e con un foglio che deve rispedire al ministero la sovrintendenza, dicendo su quale conto corrente vuoi che ti vengano accreditati i soldi. Non lo rispedisci, non ti accorgi che non ti arrivano i soldi, e quindi si arriva fino al 2004 in cui la sovrintendenza si accorge che non hai soldi. Arriviamo al 2009, poi il resto lo dico dopo perché c'ho pure sugli aeroporti di Aosta e di Crotone oggi. Allora, nel 2009 i giornali titolano: in arrivo 6 milioni per il museo di Altino. I cantieri finanziati dalla regione, dal Ministero dell'Europa, devono essere chiusi nel 2012. Ma che? Altri problemi. Si arriva al 2014 e è ancora impossibile aprire il museo. Così hanno fatto la preapertura. Io spero che non c'entrino le elezioni regionali in Veneto, perché è arrivato Zaia, ha fatto il pre-taglio del nastro, il pre-brindisi e la pre-visita. Ma che è? Facciamo pure il pre-biglietto, il pre-brindisi, il pre-taglio e la pre-visita. Meteo, pubblicità, poi Palermo e perché Palermo non manca mai, e la regione Campania, che sulla terra dei fuochi ha giustamente speso 23 milioni in spot pubblicitari per risollevare l'immagine, magari spenderli anche per bonificare non farebbe male. E gli aeroporti locali, da Cuneo a Brescia, a Crotone, a Foggia, sono degli aeroporti veramente d'élite, nel senso che nel caso di Aosta c'è un passeggero a settimana coccolatissimo, tutti attenti per lui, nessuna fila al check-in, tappeti rossi, baristi che gli portano il caffè quando sale a bordo. Net. Una bella cenetta gustosa e succolenta. Miorchi. Antipasto. Caviale e salmone. Caviale e salmone. Poi un bel consumé ristretto, molto ristretto. Etto. Dentro un uovo. Un uovo? Un uovo, è poco un uovo. È poco, sì. Metto due uova. Oh, Battista. Dimmi un po', dimmi la verità. A pesce, come stiamo? Male. Lo so. Non è stagione. È temporale, eccetera. Beh, allora questo pesce me lo sostituisci col pollo. Pollo. Hai capito? Il pollo. Patatine fitte, con due patatine fitte. Pisolini di stagione. Formaggio. Come formaggio? Gruyère. Autentica. Vizzera, sì, Vizzera. Dopo porto un po' di dolce. Che dolce? Cancaramè. Frutta? Esotica. Ananas. Tutto questo io lo voglio innaffiare una bella bottiglia di champagne ghiacciata. Champagne francese. Piper. Portami una bella piper, va. E i soldi? Quali soldi? I soldi. Per dare che cosa? Ti compra tutta questa roba. Ma insomma, c'è una notte, ma allora è un'abitudine che hai preso. È una malattia. E tu ogni volta mi chiedi i soldi. Ma insomma, allora, io ti ho messo su un piedistallo, Allora, non ci vuoi stare sul piedistallo che ti ho messo? Scusa, anticipa tu, cosa vuoi da me? E io non c'ho un centesimo, signor Barone. Come c'ho un centesimo? Non c'ho un centesimo. E allora che mangio io questa sera? Sì, la solita mortadella. Sono 6 mesi che mangio mortadella. Eccola qua, c'è il Barone. Sì, un omaggio al grande Totò, visto lo schifo del museo di Totò, e per non parlare di quello d'Altino. Allora sì, non vi dico le battute che stanno arrivando via SMS sul pre-taglio del nastro, non voglio confondermi con un altro programma. Invece, rapidissimi, a Palermo la cupola delle mazzette, qua si evolve, no? La corruzione, perché l'ufficio tributo del comune di Palermo La tangente, che potrebbe essere anche un meccanismo un po' più efficiente, veniva chiesta direttamente allo sportello. Il responsabile dell'unità contenzioso, tale Cesare Pagano, rassicurava gli imprenditori e i professionisti che si presentavano da lui con le cartelle esattoriali particolarmente onerose, dicendo, proponendo una soluzione di concordato rapida e conveniente: noi ti chiediamo la metà di quanto le deve al comune. E la tangente annullava magicamente tutti i pagamenti pendenti di Tarsu e Tares. Pensate un po' che la mazzetta si poteva pagare anche a rate e venivano i dipendenti del comune a ritirarla a domicilio. Ma tra l'altro, avendo accesso al sistema informatico del comune, la congrega di, tra virgolette, benefattori riduceva il dato sulla superficie di aziende e studi professionali in modo che chi aveva sborsato la mazzetta si trovava a pagare anche meno tasse in futuro. So che alcuni di voi lo definiranno un genio, è un ladro. È finito in manette Cesare Pagano e altri tre impiegati comunali, 12 provvedimenti di arresti ai domiciliari notificati a imprenditori e commercianti molto noti a Palermo. Infatti, nella schiera di chi preferiva affidarsi al servizio tangenti del comune c'era anche il commercialista delle suore teatine, che gestiscono un grande centro di riabilitazione per disabili, l'istituto Villa Nave. Le intercettazioni, complimenti al commercialista, hanno sorpreso, peccato non avere il nome, hanno sorpreso il commercialista mentre consegnava una mazzetta di 5.000 euro. In questo modo anche la superficie dell'istituto di Villa Nave si era ridotta improvvisamente. Diciamo, forse lo faceva per il bene delle suore, che dal 2009 al 2013 hanno risparmiato Tares e Tarsu per 62.800 euro. Il problema è che nelle carte si legge che il commercialista avrebbe commesso il reato in concorso con un membro dell'ente Provincia Italiana Immacolata Concezione delle Suore Teatine dell'Immacolata Concezione della Maria Vergine, allo stato non identificato. È identificato questo membro delle suore. Va bene, ultima notizia, la terra dei fuochi, benissimo, la regione Campania che lavori sulla terra dei fuochi. Ci chiediamo semplicemente: perché spendere 23 milioni di euro per realizzare video e prodotti editoriali a mezzo della partecipata Sviluppo Campania per risollevare l'immagine delle province avvelenate da rifiuti tossici con gli spot pubblicitari? Non sarebbe meglio, per risollevare l'immagine delle province avvelenate da rifiuti tossici, eliminare prima i rifiuti tossici? 33 milioni poi andranno agli aiuti alle aziende agricole, in totale fanno 56 milioni, io dico alla regione Campania, ma porca miseria, ma 56 milioni è più di quanto la regione ha destinato alla bonifica delle stesse aree, ma che facciamo, diamo una mano di bianco? Non posso fare la barzelletta perché è un po' volgare. Cioè, lì c'è un sito, ci sono dei siti inquinatissimi, Giuliano in testa. Saranno utilizzati 42 milioni per bonificare le aree della terra dei fuochi e 56 milioni tra contributi alle aziende agricole, 33 milioni va bene, e 23 milioni per i video. Cioè, praticamente ogni 2 milioni spesi per bonificare, 1 milione lo spendi per la pubblicità che hai bonificato? Io non so, mi vengono esempi troppo volgari, quindi sto zitto. Allora, la borsa, però prima il mondo del lavoro. Borsa meno 0,40%, Parigi meno 0,20%, Francoforte meno 0,25%, Londra più 36%. Non ce la facciamo a raccontare anche degli aeroporti di Albenga, di Aosta, di Brescia, di Foggia, lo faremo lunedì. Invece ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'amministratore delegato del gruppo Manpower e presidente di Assolavoro, cioè l'associazione che riunisce le agenzie per il lavoro interinale, Stefano Scabbio. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Con lei parleremo anche, chiaramente voglio un giudizio anche sul Jobs Act nella sua ultima versione, ma anche dell'annuncio che avete fatto oggi che cercate 5.000 candidati per assunzioni in vista di Expo 2015, mi scusi, ma sono 5.000 candidati per quante assunzioni? No, no, sono 5.000 posti, opportunità, ecco, di posti di lavoro, non candidati. Candidati, ecco, al momento, guardi, è un quanti numero sono? Impressionante, sono 95.000 che abbiamo raccolto fino ad oggi. Quindi ovviamente c'è una fame di lavoro, come possiamo immaginare. No, ma lo spieghi anche ai dipendenti delle province di Imperia che stanno occupando la provincia di Imperia, così mi ricollego al tema iniziale. Le province devono occupare delle scuole e delle strade. Andiamo a vedere le scuole e le strade e poi mi ha scritto un dipendente di una provincia dicendo: io sono un dipendente precario della provincia in Veneto, lei non sa come siano agitati proprio i nulla facenti dipendenti assunti dalle province in questi giorni. Poi uno mi ha scritto: ma basta, sei diventato il grillo dei giornalisti, mi dica dove lavora e che ruolo ha, e poi io accetto anche l'SMS. Traffico, e poi mi parla di questi 5.000 posti di lavoro con 95.000 candidature e anche del giudizio che lei come presidente dell'associazione di job placement, cioè di quelle che collocano il lavoro, date del complessivamente della riforma del mercato del lavoro. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook. Nuovo in diretta, allora dottor Scabbio, 95.000 candidature arrivate in quanto tempo per 5.000 posti per l'Expo? Ah, ma sono arrivate negli ultimi 3 mesi praticamente, okay. Questi 5.000 posti derivano... Ma ci sono veri, eh? Sì, sì, sono assolutamente veri, derivano dai paesi stranieri che ospiteremo, ricordo 145 paesi che stanno costruendo i padiglioni, no, a Milano, e quindi adesso sono pronti per definire le loro esigenze in termini di... opportunità di lavoro che vogliono offrire a questi giovani. Senta, quindi, che tipo di lavori sono? Chiaramente a contratto e con che stipendi? Allora, sono i lavori più disparati, dagli addetti alla sicurezza, biglietteria, autisti, camerieri, guide turistiche, interpreti, segretari di ricevimento, hostess, quindi sommelier, un po' di tutto insomma, gente a contatto col pubblico ovviamente, il contratto è il contratto del commercio definito con Expo in fase estensiva su 3 turni, le tipologie contrattuali sono sostanzialmente somministrazione e contratti a termine. Questo Ma di che stipendi stiamo parlando, di che profili? I stipendi sono quelli previsti dal contratto del commercio a seconda del profilo, quindi si va da stipendi di 1.000 euro in su, insomma, a seconda del profilo. E le caratteristiche, cioè, immagino che dovendo lavorare per i paesi stranieri che verranno all'Expo, uno debba conoscere quantomeno le lingue. Assolutamente, conoscenza delle lingue è estremamente importante, soprattutto inglese, tedesco e spagnolo, ma anche molto richiesto il cinese, l'arabo, il russo, ottime capacità relazionali e di gestione anche dello stress, perché chi fa queste attività a contatto col pubblico per lungo tempo deve aver sviluppato queste metacompetenze che sono estremamente importanti. Sì, devo dire che un po' fa sorridere, perché chi conosce il russo e il cinese magari uno può pensare ha già un lavoro e anche ben pagato, però ci sono molti studenti e stagisti che vanno gratis, molto spesso anche bravissimi ragazzi in questo paese. Noi purtroppo raccontiamo solo certe cose della pubblica amministrazione o anche del privato, però insomma non dimentichiamo che ci sono tanti ragazzi che silenziosamente vanno, studiano, fanno molta fatica e non fanno notizia, però in questi casi potrebbe essere conveniente. Tu stai facendo uno stage in russo sostanzialmente o in cinese e guadagni pure non 2 lire, perché gli stipendi non sono nemmeno così malvagi. Il problema è che l'Expo dura un tempo limitato. È molto vero quello che dice, aggiungo un punto che secondo me è importante, è un'esperienza internazionale, quindi consideriamo questo anche vero, il valore sì. di un'esperienza internazionale, consideriamo che... nel curriculum io penso che mettere che tu hai gestito anche a livello molto basso l'accoglienza degli ospiti nel padiglione, dico una cavolata, Austria poniamo... Beh, insomma, conta, perché ti dà la dimensione di quanto tu sai relazionarti con gli altri, di come sai stare al mondo, che sai le lingue, non è una cosa da poco in un curriculum. E c'è un ponte importante, perché per la prima volta l'Expo di Milano ha fatto un accordo con il futuro Expo che verrà organizzato a Dubai, per cui molte di queste risorse che utilizziamo qua avranno una prelazione per Expo Dubai, quindi credo che io non glielo auguro, spero che dopo quegli anni abbiano anche un lavoro, per cui glielo auguriamo tutti, però sa che chi magari ha una passione per lavoro, per far disoccupato e poi dopo 5 anni va bene tutto scambio, però invece mi dicono che fa questa attività con continuità, no? Quindi... vabbè, quello sì. Senta una cosa, invece il fatto che le associazioni, le agenzie per il lavoro siano tutte soddisfatte del nuovo Jobs Act, di quello che sta a cui mancano solo i decreti attuativi, vuol dire che voi che sfruttate il lavoro siete contenti di questa riforma che rende ancora più precario il lavoro? Ma noi non sfruttiamo il lavoro. No, lo dico perché tanto so già l'obiezione che arriva dagli SMS, quindi l'anticipo. Ormai SMS, prego. Credo che bisogna essere anche molto precisi e trasparenti. Allora, in un paese, come si diceva prima, in cui la selezione delle persone per il 60% avviene attraverso segnalazioni, con tutte le conseguenze che stiamo vedendo in questo paese in termini di mancanza di crescita e di anche crescita soprattutto della produttività, credo che passare a un sistema di valutazione e inserimento nel mercato del lavoro professionale sia un valore importante, e noi svolgiamo questo attraverso una buona professionalità, una presenza capillare. Allora, facciamo una cosa, Scabio, resti con noi, adesso io GR24, poi prima della borsa e del collegamento per capire come sta andando l'approvazione del maxi emendamento al Senato, non mi sembra di vedere notizie, vorrei capire che cosa vi piace, non c'entra di male, che cosa trovate, vi piace vuol dire cosa trovate efficiente della riforma del mercato del lavoro, c'è questo tema che oggi ricordava Poletti dell'introduzione anche dello scarso rendimento, ma quali sono gli elementi di favore e anche qualche critica se ce l'avete. 349-238-6666 per i vostri SMS, la pagina di Focus Economia su Facebook, poi la borsa e l'emendamento alla legge di stabilità, GR24. Alle 18:08, ritorna Focus Economia, con voi Sebastiano Barisoni. Allora, vedo molti messaggi sul tema dei 5.000 posti di lavoro per l'Expo, con 95.000 candidature. Non sono molto d'accordo, perché alcuni dicono stipendi da fame, per chi conosce si figuri, tanto sapevo che arrivava l'obiezione, chi conosce il cinese o il russo, ma sto dicendo ci possono essere dei disoccupati che conoscono queste lingue, ma poi ci possono essere molti studenti che per 6 mesi fanno anche un'esperienza, cioè ragazzi non è che lavorare in un padiglione in lingua tedesca o in lingua russa all'Expo di Milano sia qualcosa che non metti nel curriculum, ma poi voglio dire siamo in un libero mercato e uno deciderà se gli interessa, sapendo il russo, lavorare per 1.000, 1.200, 1.300, oppure se lo ritiene uno stipendio da fame, evidentemente altre offerte. Cioè, non so perché criticare anche 5.000 posti di lavoro temporanei, perché l'Expo non ce lo possiamo tenere per 6 anni, ma ce lo teniamo per 6 mesi. Comunque, Scabio, in quanto presidente di Assolavoro, in questo caso, che cosa vi convince, adesso lo stiamo riprendendo, eccolo di nuovo in collegamento, dicevo al presidente di Assolavoro, che cosa vi convince del Jobs Act? Pronto? Sì, pronto? Eccomi. Dicevo, che cosa vi convince del Jobs Act? Ma guardi, l'impianto generale è un impianto che va verso una cultura nuova del lavoro, voglio dire, il fatto stesso che le tre gambe sul quale si poggia la semplificazione forte sia una cosa necessaria, sappiamo la stratificazione che è venuta negli anni e l'incomprensibilità della lettura di questa normativa, soprattutto per chi vuole investire nel nostro paese, che è estremamente importante. Il secondo tema è quello di generare un sistema di flessibilità security, che permetta flessibilità ma allo stesso tempo sicurezza, e quindi il passaggio diciamo così nella riorganizzazione delle politiche sia passive che attive, ma soprattutto da politiche passive a politiche attive. Questo è un aspetto estremamente importante. E poi quello dei servizi al lavoro, come definire un metodo misto pubblico-privato di servizi al lavoro efficaci ed efficienti, che siano un po' il motore che garantisce il funzionamento di tutto il Job Act. Questo credo che sia un impianto buono, dobbiamo aspettare i testi di delega per poi capire. Beh, effettivamente Senta, ma nel contratto a tutele crescenti, sì, che a mio avviso più dell'articolo 18, visti i pochi casi, è l'elemento dirimente, quanto dovrebbe essere, cioè quando è che uno dovrebbe diventare a tempo indeterminato? Perché non è a mio avviso un dettaglio se sono 3 anni, 5 anni, 8 anni. Parlo in questo momento di 3 anni ed è un contratto a indennità crescenti, per essere precisi, quindi sì, vuol dire che ci sono delle indennità previste, non ancora quantificate al momento, che dovranno essere pagate dall'impresa se interrompe questa promessa di matrimonio, no? Chiamiamola così. Questo è un po' il pensiero. Chiaramente qui... Sì, lo spiego a tutti, più tu stai in un posto di lavoro, più è oneroso per l'impresa interrompere il rapporto, ecco, esatto. In questo senso sono tutte le crescenti, cioè se sei da 6 mesi lì ha un costo, se sei da 2 anni lì ne ha un altro ne più ha alto. Un altro, ne ha un altro. Ecco, questo va definito, come possiamo ben capire, in maniera molto precisa, perché il fatto di andare in una logica di incentivazione del contratto a tempo indeterminato, che è assolutamente positiva, ma in questa forma, che rappresenta una forma anche di flessibilità, va ben puntellata anche a fronte delle erogazioni di sgravi che sono previste oggi dall'impianto normativo, quindi va visto in modo che non ci siano degli abusi, no? E non si approfitti di questa modalità. Dall'altra parte il lavoro subordinato è privo di un'evidente componente formativa, no? E questo è un altro aspetto sul quale invece bisognerebbe lavorare in maniera molto più efficace. Cioè che cosa? Sul contratto a tempo subordinato. No, dico, ma che cosa dovrebbe essere introdotto secondo lei? Ma secondo me bisognerebbe approfittare per rivedere tutto l'impianto della formazione e renderlo in qualche maniera strumentale, no, all'ingresso dei giovani. Si era parlato di apprendistato e poi un po' svanito questo contratto di apprendistato a fronte dell'inserimento appunto del contratto, come abbiamo detto prima, di tutte le crescenti. Sì, anche secondo me modestamente sull'apprendistato forse lì c'è un passo indietro. Ecco, esatto. Lo vedo anch'io in questo ottica, però vorrei aspettare i testi per poi dare un commento più, certo, più puntuale. Ovvio che un commento generale che si può fare ora, l'occupazione non si crea con interventi sul mero profilo normativo, no? Quindi per esempio vale la pena di segnalare, no, in questo progetto di delega, no, quello della contrattazione aziendale, che non, di cui, certo, non si è fatto riferimento, che invece è estremamente importante soprattutto se consideriamo il tema del libero scambio tra salario e produttività. Questo per esempio è secondo me un anello mancante. Allora, grazie. Intanto però io ricordo, al di là dell'articolo 18 di cui molto si è parlato, che questo Jobs Act va a sfoltire le tipologie contrattuali e poi introduce anche cose nuove, per esempio la conciliazione dei tempi vita e lavoro, l'estensione dell'indennità di maternità anche alle lavoratrici parasubordinate per le quali non sono stati versati i contributi, sotto forma di credito d'imposta per le donne lavoratrici anche autonome e con figli disabili non... verranno introdotte anche le forme di credito d'imposta per le donne lavoratrici anche autonome con figli disabili non autosufficienti. Mi sembra importante estenderlo alle donne anche che hanno un contratto autonomo, visto che molte volte viene fatta la parità IVA perché non si vuole assumere e non si vuole regolarizzare. Gli ammortizzatori sociali passano da 2 a 3,4 miliardi, compresi 700 milioni per la cassa integrazione in deroga. E poi per quello che riguarda invece l'indennizzo, oggi il ministro Poletti nell'incontro con i sindacati ha chiarito che non è stata ancora decisa l'entità dell'indennizzo crescente. Per le grandi imprese il minimo sarà 3-6 mesi E poi gli indennizzi per le imprese sotto i 15 dipendenti non cambiano. Ora per il licenziamento illegittimo sono da 2,5 a 6 mesi. Ancora vedo un ascoltatore che mi scrive: ma Barisoni, quando è che applicano a lei l'articolo 18? Guardi che a me non lo possono applicare perché io sono licenziabile con un normalissimo contratto di preavviso, per cui io sono già licenziabile. Mi dispiace deluderla, ma io non ho nemmeno l'articolo 18, cioè sono licenziabile e basta. Detto ciò, Susanna Camusso: l'incontro di oggi non cambia il nostro giudizio, il governo è indisponibile al confronto, anche perché Poletti ha detto: noi, io vi ascolto ma poi decidiamo noi, non modifichiamo il Jobs Act. E poi ha definito il nuovo contratto di lavoro un contratto a monetizzazione crescente. Dal punto di vista invece del merito ci è stato illustrato quello che potremmo a questo punto tranquillamente definire un contratto a monetizzazione crescente, nel senso che il cuore della proposta è quello che si passa da una tutela reale e concreta per i lavoratori alla monetizzazione di quella tutela. Non sono state fatte cifre, la sostanza è semplicemente una discussione sui tempi e i modi della monetizzazione. E poi la CISL, che invece condivide l'idea di un contratto a tutele crescenti, però se questo, diciamo, deve eliminare la stagione delle false partite IVA dei co-co-co, però l'indennizzo deve essere adeguato. Noi riteniamo che se il governo ascolta le nostre proposte si può fare una vera e buona riforma del lavoro in questo paese, che ce n'è bisogno. Il nostro obiettivo è quello di conquistare la preminenza del contratto a tempo indeterminato, perché dopo tanti anni che si sono create una selva di tipologie, questa è una battaglia che noi abbiamo combattuto per anni. E se dal 1 gennaio, dal 1 febbraio il contratto a tempo indeterminato diventa la forma più conveniente e meno costosa, è un risultato che noi vogliamo perseguire. Allora, grazie appunto all'amministratore delegato del gruppo Manpower e presidente di Assolavoro Stefano Scabbio. Sì, devo dire che questa volta sono d'accordo con i sindacati, cioè perché sembra, con la CISL in questo caso, perché sembra che il mondo di adesso sia perfetto. Questo contratto andrà, il Jobs Act, a distruggere tutele. Oh, forse i sindacati non si sono accorti, troppo occupati sul pubblico impiego o sui pensionati, che in questo momento nel mondo del privato molti nemmeno arrivano al contratto a tempo determinato, si fa una bella parità IVA e in questo modo falsifichi il rapporto di lavoro. Questo è uno scandalo, a mio avviso. Quindi non parliamo di un mondo in cui tutto funziona, funziona per chi ha i vecchi contratti, per chi è stratutelato e va bene, ma non è che abbiamo un mercato del lavoro in cui tutto funziona e adesso andiamo a distruggerlo. Poi uno la può pensare come vuole su Jobs Act, ma basta non descrivere la realtà come quella che non è. Abbiamo un mondo in cui nel privato si utilizzano tanti co-co-co e tante partite IVA come per lavori che sono di fatto lavori da dipendente, allora vediamo di regolarlo, no? Sembra sempre che andiamo dal paradiso perduto all'inferno. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, intanto ti auguro buon fine settimana. Anche a te, anche e concludiamo a voi. Qua l'intervento sulla borsa. No, oggi è giornata molto piatta, era il giorno delle tre streghe, the three witches. Molte scadenze, meno 0,2 Parigi e Francoforte, meno 0,4 Milano, più 1,20 Londra, meno 0,40, meno 0,1 l'America. Dammi il quadro complessivo, poi dopo il traffico do io alcune variazioni. Non c'è molto oggi, c'è veramente poco, però insomma il quadro complessivo di borsa. Sì, diciamo che la borsa ha oscillato sia sopra che sotto la parità, ma con scostamenti sempre piuttosto ridotti, come dicevi tu, soprattutto ragioni tecniche, coperture, visto le scadenze dei futures su azioni, indici e opzioni. L'eccezione è Londra, che ha chiuso in buon rialzo per il rimbalzo dei titoli delle materie prime, guidato dal rimbalzo a sua volta del petrolio, che sta salendo adesso del 3%. a Milano così è andata bene Saipem, legata appunto al recupero del petrolio, e anche un giudizio positivo degli analisti di Goldman Sachs e altri big industriali come Fiat, mentre hanno perso terreno soprattutto le banche, a partire da MPS, che ha perso oltre il 4% sui timori sulla prospettiva anche di nuovi accantonamenti su crediti nel quarto trimestre. E allora i titoli, ma dopo il traffico, grazie, veramente buon fine settimana a Paolo Paronetto. Le variazioni poca cosa, devo dire, oggi ogni tanto può capitare, soprattutto Saipem e FCA, si è molto ridotto il calo del Monte dei Paschi, che inizio seduta preoccupava. Comunque ne parliamo dopo il traffico. Allora, i titoli, dicevamo, bene oggi Saipem, la migliore, più 4,64%, la banca d'affari Goldman Sachs l'ha messa nella sua lista dei titoli preferiti, e oggi sono rimbalzati tutti gli energetici. Il petrolio, come ricordavamo in apertura, ha ripreso un po' quota a $77, e infatti Eni più 2,41%. Di nuovo interesse sul gruppo Fiat, in particolare sulla controllante Exor, più 2,2%, vari giudizi positivi degli analisti, anche Fiat comunque fatto più 0,60%, World Duty Free più 3%, Yux più 1,30%, Finmeccanica più 1,20%, Luxottica più 0,90%, Campari più 0,80%. Chi va male invece? UbiBanca meno 1,70 come Mediobanca, 1,5 lo cede Mediaset, l'1,1 è il calo di Telecom, Generali meno 1 come Moncler, Snam meno 0,80, Azimut meno 0,5% come STMicroelectronics. Era molto debole Monte dei Paschi oggi per via delle ipotesi di accantonamenti e quant'altro. Infatti Monte dei Paschi poi perde 4,17%. Devo dire che anche su Monte dei Paschi sono previsti nuovi accantonamenti, e un po' d'impatto dell'abbassamento del voto delle banche italiane come conseguenza dell'abbassamento del voto del paese Italia. Capita sempre così, perché le banche hanno in pancia molti titoli di Stato. Si è fatto sentire sulla Popolare Emilia Romagna meno 2,90, sul Banco Popolare meno 2,80, su Intesa San Paolo meno 2,5, su Buzzi Unice meno 2,30, Unicredit meno 1,80 come UbiBanca. Mi chiede dei bancari, è sempre quello che mi chiede di mettermi, sì, li abbiamo appena ricordati i bancari, Monte dei Paschi meno 4,17%, ci sono anche voci di un possibile non rinnovo di Viole, Profumo, ma sono voci, il vero problema è appunto sono gli accantonamenti previsti in bilancio. Tra i migliori e i peggiori in assoluto, praticamente Seat, pagine gialle, oggi ha preso una scoppola, meno 77%, però attenzione, c'è l'emissione delle nuove azioni, il capitale è praticamente diluito. Sapete quanto vale il titolo? Vale 0,0002 euro. Airwheel meno 8, Worldspace meno 6,60, TAS meno 5,60. Mamma mia, io mi ricordo ancora quando Seat pagine gialle valeva 7 euro, 6,5 euro per azione, in pieno boom da New Economy, che tanto ognuno non era. Fedon, il debutto oggi, più 13%, Microspore più 9,5%, confesso che non so cosa fa Microspore, adesso lo verifichiamo per favore, MacLink più 6%, e poi IFIS più 5,15%. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Io volevo con te commentare la legge di stabilità, il maxi emendamento, ma è tutto slittato, nel senso che manca proprio il maxi, come titolano le agenzie, che non è un cono, ma è il maxi emendamento alla legge di stabilità. Cerchiamo di dare un giudizio, se si riesce, preventivo, perché poi non abbiamo ancora, da quello che abbiamo capito, C'è purtroppo, perché è proposto dal governo, l'aumento dell'IVA dal 10 al 22% sui pellet, il combustibile da riscaldamento, che molti italiani hanno scelto come alternativa al gas. Lo so che sono arrabbiati, mi scrivono. Il congelamento per il 2015 del canone RAI, lo stop agli aumenti della TASI con aliquote pari a quelle del 2014, la riduzione dell'IVA sugli ebook al 4%, è slittato il provvedimento di far pagare gli alluvionati tutto in una rata, ci mancherebbe anche, e poi tagli ai dipendenti delle province, di cui abbiamo parlato ampiamente in apertura. Guido, un commento sul maxi emendamento, immaginando che tutto andrà liscio, perché prego. Sì. Innanzitutto siamo a uno spettacolo consueto, quello di fine anno, della prima della legge finanziaria, oggi della legge di stabilità. E siamo a un punto fermo, e arriveremo probabilmente stanotte all'approvazione della legge, e la solita bagarre di fine anno con il maxi emendamento che viene presentato all'ultimo istante. Direi non ci sono grandi novità sul fronte della manovra di politica economica. Sappiamo che questa non è risolutiva in termini di crescita, sappiamo anche che segna un'inversione, un cambio di stagione rispetto all'austerity che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, ma sappiamo appunto che in termini di crescita del reddito e di riduzione del debito pubblico non è assolutamente decisivo. No, diciamo, se vogliamo essere buoni, è di transizione, non c'è più l'austerity di Monti e in parte anche di Letta, non c'è ancora la parte, diciamo, sull'espansione economica. Un'ultima domanda, Guido: il 24 alla vigilia non arriverà Gesù Bambino, ma un Consiglio dei Ministri in cui, se ho ben capito, il centro dovrebbe essere l'ILVA. Siccome sull'ILVA io non ho mollato il colpo, secondo te si andrà verso a una nazionalizzazione con la Cassa Depositi e Prestiti, diciamo, seppure temporanea? Io credo che ci sarà un intervento pubblico, questo lo darei per scontato. Non so se in termini così netti di nazionalizzazione, però sicuramente un intervento della Cassa Depositi e Prestiti o di un suo braccio operativo ci sarà, io questo lo darei per certo. Allora, Guido Gentili, grazie. Ripeto, stiamo ragionando sul maxi emendamento, che ancora non c'è ancora nulla in agenzia, vedo, per cui doveva esserci ieri sera, poi questa mattina, poi 17, ora 18. Vedremo con grande gioia e felicità dei colleghi che stanno seguendo. Grazie all'editorialista del Sole 24 Ore, un ringraziamento a Sebastiano Barisoni, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione. Voglio chiudere con un messaggio propositivo a proposito dei 5.000 posti di lavoro per l'Expo, che molti snobbano, a mio avviso, con un atteggiamento da gauche caviar. Scrive uno ascoltatore: guardate che molti cacciatori di teste e selezionatori europei valutano meno i curricula dei candidati italiani perché manca spesso l'esperienza lavorativa o uno stage. Fare 6 mesi in un padiglione pagato, in un padiglione internazionale, lavorando con delegazioni straniere, è un buon punto da evidenziare in un curriculum di un neolaureato. A tutti gli altri possono continuare a mangiare il caviale. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.